Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, ci avviamo al termine del periodo di ferie e inizia una nuova stagione. Allora forse questo è il momento per parlare anche di una fase nella quale si entra fatalmente, che può cambiare veramente la vita, è quella che si apre ai sessantenni, secondo il libro che vi presento adesso di Enrico Gioni, che è un ex manager il quale dopo i 50 anni ha cambiato la sua vita professionale per dedicarsi ad altre attività, tra cui la scrittura, e adesso pubblica I ragazzi di 60 anni, lavoro, famiglia, passioni, come e perché è possibile iniziare una nuova vita, pubblicato da Mondadori, 242 pagine, 17,50 euro. Il tema, ci spiega l'autore nelle prime pagine, è posto dalla domanda se esista una fase di vita nuova intesa come fase distinta sia da quella adulta classica sia dalla vecchiaia vera, e l'autore vuole anche capire quale sia la gamma delle opzioni in termini di attività, tempi, luoghi, soluzioni abitative che le persone in questa fascia di età prendono in considerazione. E su questi temi Oggioni fa una indagine scientifica con l'ausilio di studiosi e di associazioni specializzate e presenta qui le sue conclusioni. Naturalmente parte dal grande cambiamento che ha avuto luogo in base alle tendenze demografiche. I sessantenni di oggi sono naturalmente molto più vivi e molto più attivi di una volta, e lo ricorda lo stesso autore quando scrive che a 63 anni, età anagrafica, puoi avere un fisico che ti consente ancora di fare partite a pallone con dei trentenni, età biologica, di sentirti di fare scelte lavorative di forte responsabilità e impegno come se ne avessi 50, età soggettiva, di avere già maturato i diritti alla pensione, età legale, di continuare a fare il padre di famiglia mantenendo i figli in casa tua, età sociale. Insomma, un'età intermedia, oltre la piena maturità, ma prima di diventare veramente vecchi. E allora che cosa si fa intorno a quell'età? Lo spiega nel libro, appunto, raccontando molte storie. Qua ci facciamo presentare una sintesi. Buongiorno a Enrico Gioni. Buongiorno. Allora Enrico Gioni, il suo libro affronta questo tema della posizione dei sessantenni, indicando un po' un paradosso: da un lato il fatto che questi sessantenni devono fare i conti anche con una situazione previdenziale modificata, hanno preoccupazioni economiche, dall'altra parte c'è un cambiamento del vissuto, di come lei lo chiama, del pensionato. Ecco, come si intrecciano questi due elementi? Sì, il libro che ho scritto è un libro con uno spirito essenzialmente ottimista, quindi diciamo che questi due aspetti che lei sta indicando sicuramente creano la necessità di affrontare in modo diverso rispetto al passato il come si vive i 60 anni. I 60 anni, per dire un'espressione di sintesi, in realtà anche tutti gli anni intorno. Sicuramente il fatto che ci sia un scivolamento, un allungamento dell'età pensionabile pone a molti dei problemi, però qui vorrei ricordare anche quali sono i grandi numeri, cioè che nella fascia di età tra i 55 e i 64 anni il tasso di inattività è vicino al 60%, quindi vuol dire che c'è la maggioranza delle persone di questa età che non lavorano perché sono già pensionate oppure non hanno mai lavorato prevalentemente, a parte quelli espulsi. Però sicuramente per tutti gli altri c'è il tema del prolungamento dell'attività lavorativa, soprattutto per coloro che si aspettavano a breve di andare in pensione. Contemporaneamente c'è che questa è una fase di vita ed è un periodo per chi vive in questa parte del mondo comunque che offre delle opportunità per chi ha questa età. Quindi effettivamente c'è, come dire, da una parte il bello del vedere questa opportunità e del poter vivere come questa fase di vita come mai era stata vissuta, cioè una fase di vita nuova, non di vecchiaia. Dall'altra parte è chiaro che questo va combinato con un modo di gestione economica, soprattutto per quelli che appunto devono ancora andare in pensione, che anche se un po' da scoprire. Lei accenna nel libro a una divaricazione tra quelli che chiama le avanguardie privilegiate, che godono di uno zoccolo duro del benessere, e la società nel suo complesso. Quanto è forte questa divaricazione oggi? Oggi questa divaricazione è piuttosto forte secondo me soprattutto per il fatto che, come dire, c'è un ceto medio che con la crisi attuale ha dei problemi più che non in passato. Però è vero che c'è quello che io chiamo lo zoccolo duro del benessere, un po' tutte quelle attività che sono di tipo ludico piuttosto che non di tipo culturale, che ci siamo sempre concessi noi di queste generazioni per tanti anni, e che nel momento in cui si arriva a questa fase di vita nuova e diversa ci si vuole concedere ancora di più. Ecco, la divaricazione forse può esprimersi in questo senso che le persone che hanno più difficoltà economiche a questa età, se vediamo alla famiglia e non soltanto all'individuo, probabilmente si dedicano molto alla cura della propria famiglia, dei familiari, al dare un servizio utile, ad esempio occupandosi delle persone veramente anziane piuttosto che non occupandosi dei nipoti con i figli che invece vanno a lavorare. Quindi probabilmente, come dire, la divaricazione aumenta con un incremento delle persone che danno servizi utili o come volontariato o più frequentemente ancora in famiglia. E lei infatti nota che la generazione degli attuali sessantenni è una generazione che sente molto la responsabilità nei confronti dei figli e parlano di dovere di restituzione alla generazione dei figli di quello che hanno saccheggiato da qualche decennio a questa parte. Queste sono sue parole. Sì, direi che è molto diffuso questo sentimento, non vale per il 100% delle persone, ma direi proprio che è molto diffuso. Come dire, come conseguenza di questo sentimento c'è che sicuramente un aiuto ai figli ancora in famiglia lo si dà, un aiuto ai figli per instradarli nel modo più adeguato verso il lavoro oppure viene dato. Mi viene in mente un fatto recente che è quello della proposta che è stata fatta alla Nestlé Perugina, in cui si propone di lavorare part time al sessantenne essenzialmente in cambio dell'assunzione del figlio. Ecco, questo probabilmente è un segnale ulteriore non solo di regole del lavoro che sono cambiate, ma anche del fatto che c'è sensibilità diffusa, io la interpreto così, da parte delle persone intorno ai 60 anni, del fatto che le generazioni giovani sono generazioni che sono state penalizzate. E infine lei indica 5 progetti per costruire in modo alternativo il futuro. Ecco, di questi 5 progetti a quale darebbe la priorità? Dunque, se stiamo sul quantitativo, direi che i 5 progetti sono: il primo, quello del continuare l'attività lavorativa di sempre, quelli che io chiamo anche i tenaci, insomma, quelli che un po' perché se lo possono permettere, un po' perché gli piace, proseguono, e quindi il progetto che fanno quando hanno 60 anni è di continuare a lavorare. Questo è molto diffuso, ad esempio, tra i liberi professionisti, piuttosto che tra gli imprenditori, piuttosto che non tra quelli che svolgono attività di tipo più intellettuale o con compiti più di tipo decisionale. Un altro progetto, che è quello del servizio utile agli altri, tra cui appunto, come abbiamo detto anche poco fa, il volontariato, se non sbaglio siamo intorno al 20% delle persone della fascia di età che considero che vi si dedicano, quindi anche questo è molto rilevante. Altri progetti possibili che io indico sono il dedicarsi ad attività lavorative nuove e diverse, non è così frequente come gli altri progetti, ma vi sono parecchie persone che ci provano e che vi si dedicano, a volte per necessità, a volte per motivazione e piacere. Sicuramente ci sono, hanno un peso significativo, pensi anche al numero elevato di persone che hanno del tempo più libero dai 60 anni in avanti, i progetti che si raccordano alle passioni che ogni persona ha avuto nel tempo e magari non ha avuto modo di coltivare, quindi passioni che possono essere di tipo manuale o di tipo intellettuale o di tipo artistico, ce n'è di tutti i gusti. Ecco, credo che vi siano veramente molte persone che dedicano il proprio tempo a coltivare queste passioni. E infine c'è una parte, forse quantitativamente non così rilevante perché sono necessarie delle forti risorse economiche, che si dedica come dire, ad attività ludica, di attività di consumo, come potrebbe essere il viaggiare piuttosto che non frequentare circoli, eccetera. Rispondiamo allora alla domanda con la quale si chiude il suo libro. Questa generazione è una generazione generosa, a suo parere? A mio modo di vedere non tantissimo dal punto di vista collettivo e invece molto dal punto di vista privato, nel senso che sul piano privato, se vediamo il comportamento di ciascun genitore nei confronti dei propri figli, credo che anche perché storicamente nella famiglia italiana ci sono sempre stati dei vincoli saldissimi tra genitori e figli, insomma i genitori 55, 60 anni, 65 anni, 70 anni si fanno in quattro per creare le migliori condizioni per i propri figli. Non appena si sposta il problema sul piano delle decisioni pubbliche e collettive, ecco, lì entrano in gioco invece interessi consolidati che non so dire se sono esattamente generazionali, ma che comunque per tanto tempo, basta pensare a cosa è successo intorno al tema delle pensioni, sta succedendo tuttora in termini di proteste, a quel punto diventano reazioni sicuramente non generose nei confronti delle future generazioni. Bene, grazie a Enrico Gioni, autore dei Ragazzi di 60 anni. Buona domenica. Grazie. Un pensionato in buona salute e mediamente attivo troviamo nel romanzo di Julian Burns Il senso di una fine, pubblicato da Einaudi, 154 pagine, 17,50 euro, tradotto da Susanna Basso. Tony Webster, il protagonista, è appunto ormai pensionato, si sente la tipica espressione di una vita media, senza particolari soddisfazioni e senza particolari sciagure, con un matrimonio mediamente fallito, nel senso che ha mantenuto un rapporto molto civile con la sua consorte. Insomma, vive una vita di routine nella quale a un certo punto irrompe una inattesa e curiosa eredità che riaprirà il corso della sua vita, facendogliela ripercorrere tutta come un lungo e inesorabile flashback. E al centro di questa vita c'è la ragnatela di rapporti che partono da un amico di gioventù, intelligente snob, che purtroppo ben presto sparirà, e non vi dico come, per ricomparire a modo suo nella vita di Tony e fargli prendere coscienza dei tanti errori commessi. E in queste righe capiamo appunto il trauma del protagonista narrante. La decisione iniziale di entrare in possesso di un bene lasciato in eredità aveva assunto proporzioni di gran lunga più significative, fino a diventare una questione che si rifletteva sulla mia intera vita e sul tempo passato e sui ricordi. Ho pensato, dico sul serio, a un certo livello di coscienza, l'ho pensato davvero, di poter tornare al principio della vicenda e cambiare le cose. Ho pensato di poter sospingere il sangue controcorrente. Prima di dare la linea alle informazioni sul traffico, segnalo un libro calcistico, visto che si avvia il campionato. Il libro è quello di Fabio Caressa, Gli angeli non vanno mai in fuorigioco, la favola del calcio raccontata a mio figlio, Mondadori, 198 pagine, 17 euro. E qui abbiamo la storia dei momenti più decisivi nella storia del calcio italiano all'interno del racconto di un'estate particolare, l'estate di Diego, il protagonista appassionatissimo di pallone. Un libro tira l'altro. Parlavamo prima di sessantenni e parliamo adesso di seniores che non tramontano, e cominciamo con Valentina Cortese, autrice di Quanti sono i domani passati, pubblicato da Mondadori, 190 pagine, 18 euro, un'autobiografia curata da Enrico Rotelli, nella quale la grande attrice racconta più che la sua vita un periodo straordinario del teatro e della cultura italiani, di cui la Cortese è stata certamente protagonista assoluta. L'attrice era stata allevata in una famiglia assai modesta, con una turbolenta storia familiare alle spalle, e confessa qui Valentina di dovere molto alle sue origini. Scrive infatti che proprio quel periodo di difficoltà l'ha segnata. Scrive: non ho mai dimenticato questo mondo, quelle restrizioni mi hanno reso più volitiva e determinata e hanno nutrito la mia fantasia. Quante volte le ho usate per interpretare i miei personaggi e quante volte nei momenti tristi mi sono aggrappata a quel passato ricco di affetti. Poi la situazione cambia, la Cortese inizia a coltivare la passione per il cinema e la recitazione, il teatro, ha le prime copte per gli artisti, la prima per De Sica, poi per De Sabata, e comincia la sua carriera che la porta tra l'altro a diventare protagonista della fase più memorabile del Piccolo Teatro di Milano. E qui, in questo brano che vi faccio ascoltare, c'è una testimonianza sul grande regista di quel teatro di quegli anni, e cioè Giorgio Strehler. Durante le prove capitavano scene in cui non mi trovavo a mio agio e col carattere un po' ribelle che ho io, a Giorgio dicevo che avrei preferito farle in modo diverso. Ogni tanto, non spesso, riuscivo a convincerlo, ma di solito tutto doveva essere eseguito come diceva Giorgio. Se era stanco e la scena non veniva come voleva, capitava che ci mandasse a mangiare un panino. Poi d'un tratto, al nostro ritorno, vedevamo la luce scoppiare fuori dalla sua testa ed ecco che cominciava a creare. Facevamo le 6 del mattino, era la cosa più bella del mondo. Una volta chiese chi fosse stato ad accendere un faro. «Quel faro non c'entra niente con la scena. Non lo voglio, non ho mai detto di accenderlo. Maestro, guardi che è il sole che entra dalla finestra», gli rispose un tecnico. Un novantenne assai arzillo è pure Ettore Bernabei, l'ex potentissimo direttore generale della RAI, assai vicino a Fanfani, espressione per antonomasia del potere della Democrazia Cristiana, che si racconta nell'intervista rilasciata a Pippo Corigliano, che per molti anni è stato il portavoce dell'Opus Dei in Italia. Il libro si intitola L'Italia del miracolo e del futuro, Cantagalli, 238 pagine, 16,50 euro. Questo libro è una lunga cavalcata nella storia d'Italia, a partire dall'Unità. È più interessante ovviamente sono le parti eventi che hanno visto Bernabé protagonista, per esempio nella nascita della Democrazia Cristiana. Qui Bernabé ricorda il ruolo che il partito ebbe nella rinascita dell'Italia Democratica, un ruolo, una funzione che Bernabé così sottolinea nell'ambito intellettuale. I dossettiani in economia erano quasi tutti keynesiani, ma avevano studiato anche gli errori delle prime applicazioni delle teorie suggerite da Keynes, in particolare quelli compiuti dal New Deal rooseveltiano per superare alcune degenerazioni del capitalismo americano. Dossetti, Lapira, Fanfani, Vanoni, alla fine degli anni 40 risultarono più aggiornati e realisti degli studiosi inglesi che avevano preparato per il governo laburista il piano Beveridge. I dossettiani, infatti, avevano studiato a fondo le teorie degli empiristi inglesi del XVI secolo e dei padri del liberismo, da David Ricardo ad Adam Smith, nonché dei propugnatori del materialismo storico, Engels e Marx. Sulla base di studi approfonditi, ne avevano criticati i più vistosi errori di tecnica economica, di impostazione filosofica e di concezione morale. Con queste basi di accurati studi, avevano cercato e individuato le necessità più urgenti per ricostruire l'Italia del dopoguerra, in maniera da avviarla ad uno sviluppo equitativo e durevole. Quando i dossettiani si resero conto che per ammodernare rapidamente il sistema Italia dovevano passare dalle aule universitarie a quelle parlamentari, lo fecero per spirito di servizio, ma con una determinazione tale che in poco tempo nella DC surclassarono i colleghi, rimasti fermi al politicantismo verbale prefascista. Ed è interessante anche il capitolo sul sistema televisivo, nel quale troviamo alcune curiosità, per esempio una valutazione semiologica sui varietà delle gemelle Kessler e sul significato che essi rappresentarono nell'Italia che cessava di essere bacchettona proprio in quegli anni. E poi tante riflessioni anche sull'oggi, anche sul sistema televisivo, dispensatore allo stesso modo ormai di spazzature e di ansie, dice Bernabé, e quindi propagatore di un modello alla base del quale, secondo Bernabé, c'è soltanto il denaro, il che a suo avviso spiega anche molti comportamenti degli elettori delusi. E un grandissimo uomo di spettacolo troviamo in una biografia di uno dei maggiori scrittori del Novecento, e La vita del signor de Molière di Mikhail Bulgakov, è pubblicato da Mursia, 222 pagine, 15 euro, tradotto dall'inglese da Barbara Miró. Scoprendo Molière, Bulgakov scopriva se stesso, scrive Beppe Benvenuto nella sua prefazione, che aggiunge: i tratti comuni tra i due uomini di teatro sono molti, segnati da esistenze differentissime, eppure a più di un tempo accostabili, a cominciare dalla grossa questione del potere e del ruolo dell'artista nei riguardi dell'autorità, e se quest'ultima è particolarmente tale, ovvero assoluta e capricciosa, per certi versi è persino meglio. E l'incontro fra Bulgakov e Molière è felice, a tratti irresistibile. Le pagine sul grande commediografo, sulla sua opera, sulla Francia assolutista di Luigi XIV sono effettivamente molto riuscite, in particolare le pagine proprio sul rapporto con il Re Sole, un rapporto che fu fondamentale e anche molto difficile, come dimostrano peraltro queste righe dedicate a un famoso spettacolo che Molière aveva messo in piedi, quella della commedia balletto Gli Importuni, che fu offerta a Luigi XIV nella fastosissima villa del sovrintendente Fouquet, che di lì a poco sarebbe caduto in disgrazia e avrebbe finito la sua vita in galera. Con che coraggio Molière presentò al sovrano un ritratto grottesco dei nobili che componevano la sua corte. In realtà, egli aveva agito sulla base di un'osservazione corretta. Il re non vedeva di buon occhio l'alta aristocrazia francese, né si riteneva un primus inter pares. Nell'opinione di Luigi XIV, il potere del sovrano scaturiva da un'investitura divina ed egli si elevava ben al di sopra dai miseri mortali, a una distanza incommensurabile. Il posto che gli competeva era nel firmamento, accanto al Padre Eterno, e pertanto il sovrano era piuttosto suscettibile nei confronti di qualsiasi tentativo da parte dei suoi cortigiani di erigersi al di sopra di quel livello. Luigi XIV, nella cui memoria era ancora vivo il ricordo della Fronda, stringeva in un pugno di ferro l'aristocrazia francese. Restiamo in Francia con un ritratto insolito di un protagonista della storia di quel paese e dell'intera Europa, cioè Napoleone, che ci viene presentato nella veste di Napoleone il Comunicatore. Questo è il titolo del libro di Roberto Race, sottotitolo Passare alla storia non solo con le armi, pubblicato da Egea, 138 pagine, 16 euro. Napoleone, dice l'autore, è il primo uomo di Stato a concepire l'opinione pubblica nei termini in cui la si tratterà nei decenni e nei secoli successivi. Bonaparte non si limita a tastare gli umori della borghesia o del popolo, li soppesa e ne tiene conto, nella consapevolezza che la genesi moderna del suo potere è collegata al consenso di ampi strati sociali. E allora, come comunicava Napoleone? Con efficacia pari alle più moderne tecniche di comunicazione. Scrive infatti l'autore che Napoleone anticipa le teorie del marketing moderno sul mercato obiettivo. Per dirla secondo gli assiomi di un guru della materia come Kotler, Bonaparte ha ben chiaro a chi è rivolto il messaggio, con chi si ritrova a competere, come è strutturato l'ambiente nei cui confini si svolge la sfida. E per questo sceglie anche una sapiente politica di brand, di marchio, come nota l'autore, collegata all'immagine che adotta, l'immagine famosissima dell'aquila. Poi ci sono naturalmente i quadri dei grandi pittori e il racconto di sé, sul quale pure Napoleone non è secondo a nessuno. Egli infatti usa le sue doti superiori, scrive Race, per avallare una storia manipolata a suo uso e consumo, il racconto di un titano nato per rifondare l'Europa sulla scorta degli ideali repubblicani. E furono proprio gli errori di comunicazione, secondo l'autore, a contribuire alla sconfitta fatale di Waterloo, dopo la quale il mito non verrà certo meno alimentato in primo luogo da quel memoriale di Sant'Elena nel quale Napoleone smonta efficacissimamente le accuse dei suoi nemici. Un'altra biografia, questa di un grande musicista, è quella di Klaus Mann, Sinfonia patetica dedicata a Tchaikovsky, pubblicata da Gallucci, 378 pagine, 18 euro. Questo è un libro del 1935 che nelle intenzioni dell'autore, che fu un inquieto scrittore tedesco, figlio del grande Thomas, morto anch'egli suicida, come probabilmente finì suicida lo stesso autore Tchaikovsky, e vuole essere più che una biografia, un affresco dell'Ottocento musicale romantico, di cui il grande compositore russo fu uno degli interpreti più significativi. È una biografia narrata, naturalmente, per nulla pedante, espressione a sua volta della sensibilità inquieta dell'autore, che in Tchaikovsky sembra cercare un alter ego. E sentiamo dal libro queste righe sull'accoglienza trionfale che una città lontanissima dalla cultura di Tchaikovsky, e cioè New York, riservò al musicista, che dovette fare i conti con un sistema mediatico ben diverso da quello che aveva lasciato a San Pietroburgo, invece assai simile già a quello che noi ben conosciamo. Il nuovo continente, pieno d'energie e in imponente fase evolutiva, riceve con entusiastica curiosità gli esponenti della celebrità europea, i tardi classici, i problematici giganti. Sulla vita privata degli illustri ospiti si precipita una stampa avida di sensazioni, ingenua, indiscreta. Chi è questo Piotr Ilyich Tchaikovsky? Che cosa si può raccontare di lui? La sua produzione è famosa nel paese. Piotr Ilyich può constatare che a New York si conosce meglio e si ama più sinceramente la sua musica che non a Parigi, Berlino o Vienna. Ora però si richiedono fatti, aneddoti, avventure, particolari piccanti, commoventi e comici della sua vita. L'immagine di Tchaikovsky, il ritratto dell'uomo anziano dalla rotonda barba brizzolata, l'alta fronte, la bocca troppo molle, appare sulle prime pagine dei quotidiani. Ma il protagonista dovrebbe, adesso, fornire il testo per le sue foto. I giornalisti assediano l'Hotel Normandie. A un tempo impressionati e delusi, sono costretti a ritirarsi. Non trovano accesso alcuno a quella vita celata, mentre certo anche i più ignari tra loro vengono sfiorati dal soffio di quella grande malinconia. I giornalisti delusi si dicono: quest'ospite celebre non possiede purtroppo una biografia drammatica, nulla di sensazionale. E mentre si allontanano ciondolanti in direzione di Broadway, neppure intuiscono la tensione permanente che agita la monotonia di quell'esistenza. Nulla della sua tragica legge, nulla della sua commovente grandezza. E a questo punto... il confettino. Dei musicanti celeberrimi sono quelli di Brema, con un classico dei fratelli Grimm. I musicanti di Brema, appunto, in una bella edizione illustrata da Claudio Palmarucci, pubblicato da Orecchio e Cerbo, 16 euro. E con questo ringrazio Luca Cremonese in redazione e Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Buona domenica a tutti e arrivederci alla settimana prossima.